Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out-out. Il lume della ragione si incendia. Se il boomer non dà ragione al millennial e muore chi non si adegua, alzi la testa tipo la giraffa di Lamar e si lamenti che viviamo in una società. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, tutto cambia e lei sta dietro, chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Coca Zero, Coca Zero, Coca Zero, Coca Zero. Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno. Oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook. Si diceva che le giacche e le cravatte fanno più danno dei tattoo. Oh, non lo so, sarà che un po' di tempo che fan più casino i papillon. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, ogni mito c'ha il suo mito, ma non si arresta l'ordine che si è costituito. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Dopo l'ebbrezza di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani. C'è chi alla fama domani preferirebbe del cash oggi, chi per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing. Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.